638 morti civili iracheni in queste ultime 48 ore per il governo di Baghdad e più di 1500 per i due corrispondenti di Al Jazeera nelle due città martoriate. Lucio Manisco, giornalista e deputato europeo nelle liste del Partito dei Comunisti Italiani, fa una lucida ed attenta analisi degli ultimi fatti avvenuti proprio in queste ultime ore a Fallujah e Najaf, paragonando questi avvenimenti con il Vietnam, quando vennero distrutti i villaggi di My Lai e Khe San. Lucio Manisco pone un monito a cui tutti ci uniamo. Fermate questa follia omicida prima che sia troppo tardi. Non permettiamo che l'Iraq diventi un nuovo Vietnam. Barbara Galeazzi, reporter associati per Amisnet Radio.